hai sentito anche tu, no, le dichiarazioni meravigliose, ma te le ricorderai, Luis Enrique, sì, Zeman, sì. Andrea Zoli, possiamo andare indietro se vuoi, avanti, no, avanti non lo so, avanti non lo so, abbiamo lanciato un messaggio in bottiglia ieri su Twitter, Mister Roma, cerchiamo l'allenatore alla Roma, non l'abbiamo mica ancora trovato. Ma loro adesso forse sì, queste potrebbero essere, non dico ore decisive, perché sai che nel calcio e con la Roma in particolare è sempre difficile parlare di ore, ma in questo momento a Trigoria ci sono, cioè, il famoso Italo Zanzi, non so se per voi è famoso, ma qui a Roma insomma, sì. Sai, ci chiediamo che cosa faccia nella vita, però in realtà lui si è definito l'allenatore dei dirigenti. C'è Tenucci, c'è Baldini, sono tutti e tre riuniti ad aspettare una telefonata da parte dei manager di Blanc, sì. Il quale Blanc, come sapete, Laurent Blanc, è anche, ha anche ricevuto un'offerta dal Paris Saint-Germain, però soltanto per un anno. Perché aspettano Wenger. Per arrivare Wenger. E mentre la Roma offre anche 2 milioni e offre un contratto a 2 anni con un'opzione per il terzo. Dopodiché la Roma ritiene di aver trovato, qualora Blanc dovesse dire sì, e la Roma ritiene di aver trovato l'allenatore giusto per la piazza, però nel frattempo questa mattina Roma brucia di nuovo sul nome di Laurent Blanc, per due motivi. Uno perché dopo aver detto che il calcio da seguire era quello spagnolo, vanno a prendere un francese. Sì. Due perché dopo aver detto che il calcio che si doveva fare a Roma era il calcio spettacolo, vanno a prendere un difensivista. Il più grosso catenaccio che si ricordi nella storia del calcio è quello fatto da Laurent Blanc contro la Spagna ai recenti europei. Sì. E poi il terzo motivo è che lui nel 2 anni fa, se non sbaglio, fece una dichiarazione di quelle che poi si rivelano decisamente infelici. Già ci furono molte polemiche a Roma in quella circostanza quando lui disse che la differenza tra il calcio italiano e gli altri è che Henry va a chiudere la carriera negli Stati Uniti, mentre invece Del Piero e Totti ancora giocano. Sì. A distanza di 2 anni si ritroverebbe ancora Totti davanti. Ed eccolo qui, tutti lì riuniti ad aspettare la telefonata di Laurent Blanc, tecnico catenacciaro che tutti conosciamo, ex CT della nazionale francese, nonché allenatore del Bordeaux. Roberto, ti chiedo un attimo di pazienza, traffico, poi una domanda per te, che te l'anticipo è questa, mi devi spiegare, tu sei uno dei pochi in grado di farmelo, perché a Roma comandano in tanti e nessuno comanda. Tutti convocati. Luis Enrique, Zeman, non vi viene mai la voglia di un allenatore normale? Bot 0024 0024, partecipano al forum anche i laziali appassionati al tema. La seconda squadra di Roma deve liberarsi di Totti e De Rossi, non l'ha ancora capito, influenzano troppo, scrive un ascoltatore che si chiama Luca. Invece Roberto Renga deve spiegarmi perché così tanti comandano alla Roma e nessuno lo fa sul serio, tanto che qualcuno come all'Inter rimpiangono Reali da 4 anni, a Roma qualcuno forse comincia a rimpiangere anche Montali. Montali sì, ma anche Daniele Pradè, anche Montella, anche Bruno Conti, i rimpianti ormai sono parecchi. E il fatto è che è successo questo, che la Roma, questa nuova Roma, diciamo, questa nuova versione, è nata intorno a Baldini, e quindi Baldini e i baldiniani, che sono Fenucci, Sabatini, poi l'avvocato Baldissoni, che è consigliere ma è sempre presente ovunque, prende ogni decisione. Ma la cosa strana è che a quanto pare non si sono fidati dei baldiniani proprio degli americani che sono stati chiamati da Baldini. E allora accanto a ognuno, a ogni dirigente italiano, c'è un dirigente americano, quindi c'è Pan, Pan che doveva andare via, ma in realtà è ancora l'amministratore delegato, mentre amministratore delegato è anche Fenucci. Certo. Quindi c'è un amministratore per gli italiani e uno per gli americani. Sì. E poi dopo c'è soprattutto c'è questo Italo Zanzi. No, che tutti quanti, oddio, che faranno, nessuno lo sa cosa faccia, in realtà è simpatico, però c'è una faccia allegra. Manca solo lo sceicco, adesso entra anche quello. Ma non solo lui, anche Baldini, ci andava a pranzo con lo sceicco e non solo Baldini. E insomma, comunque ne hanno combinate più di carne in Francia, ne certo. Pensi tutti quanti, il logo, come sapete la sciarpetta venduta, adesso c'ero anch'io, no? Sì. In occasione della sconfitta di Coppa Italia, sì. Che sul sito vendevano la sciarpa, per farlo ricordare. Diciamo che ci sono delle gaffe una dietro l'altra, però tra le gaffe poi ci sono anche gli errori. Ma perché? Perché non c'è un presidente. Perché il presidente sta a Boston e è Pallotta, americano, che non sa niente di calcio ovviamente. Ha messo un allenatore dei dirigenti sopra il direttore generale, e anche l'allenatore dei dirigenti non sa niente di calcio, viene dalla pallamano. Sì. È difficile, pensa, non lo so, uno di noi che va negli Stati Uniti e deve scegliere gli allenatori o i direttori sportivi per il baseball. Bravo, io esatto, sinceramente per il baseball. Sarei fuori di me. Sì, sì, sì, Roberto, un casino così non l'hai mai visto. Tu. Non l'hai mai visto. Mai. Io guardo, comunque... ho seguito prima la Lazio, poi la Roma, mi ricordo, la Lazio la chiamavamo Odeon tanti anni fa, subito sì. dopo la morte o la successione di Umberto Lenzini. Tutto perché quanto fa spettacolo. Un gruppo nuovo, succedeva qualcosa, no? Faceva sempre spettacolo. Certo. Ma mai come questa Roma adesso, mai. Condizioni ideali però per la cessione di De Rossi, queste? Come, scusami? Condizioni ideali per la cessione di De Rossi al Chelsea, Mourinho vuole anche lui. Sì, beh, lo vuole, però magari lo vuol pagare solo 10 milioni, ma ci sta nel frattempo che anche il prezzo di De Rossi sia questo. La Roma lo vuole vendere fortemente, adesso bisognerà vedere cosa ne pensa De Rossi. La Roma lo vuole vendere perché intanto incasserebbe 10 milioni, più risparmierebbe, diciamo, 12 o 13 milioni all'anno di ingaggio. Ingaggio, certo. E quindi sono soldi, è come se ti entrassero dei soldi. Certo. Più hanno già venduto Stekelenburg per 4 milioni e mezzo, ma 1 milione va all'Ajax, quindi 3 milioni e mezzo, che comunque entrano e risparmi l'ingaggio. E poi vogliono vendere Osvaldo per 10-12 milioni. Alla fine verrebbero fuori i soldi per fare la campagna acquisti. Sì, a beneficio di chi, però non è chiarissimo. Però sì, sinceramente, sai, quando io vedo che adesso fanno un'altra rivoluzione, un po' sono contento perché vedo che i giocatori che hanno preso in 2 anni sono un disastro. Un po' sono preoccupato perché su 36 giocatori acquistati, quelli buoni sono 2 o 3. E per la legge dei grandi numeri prima o poi qualcuno ne azzecchi, d'accordo? Ma se ogni volta tu ricominci da capo, e quando avrai mai una squadra? Ma poi si potrà avere una squadra quando non c'è un presidente che caccia i dirigenti che sbagliano? Ma quale presidente? Roberto, io ti chiedo un'ultima cosa a nome di un ascoltatore che si chiama Luca e chiama da Perugia, scrive da Perugia. Mi chiedono di farti parlare del grifo. Che carogne che sono, perché nel domenica Perugia ha pareggiato la partita con il Pisa a 4 minuti dalla fine, vinceva 2-1, il Perugia era a un passo dalla Serie B, e poi invece nel giro di 60 secondi si sono fatti raggiungere, non chiudendosi in difesa, non facendo niente, un'ingenuità spaventosa, e adesso ci ritroviamo di nuovo, in questo caso uso la prima persona plurale. Certo, ma è giusto così. Ma poi insomma Perugia è Serie C, quindi non tocca il mio lavoro. E ci ritroviamo di nuovo in Serie C, però già sarebbe stato un miracolo essere promossi quest'anno, era il primo anno in Serie C1. Certo, ma Gaucci che fine ha fatto? Non me lo ricordo più. No, Gaucci per fortuna no, Gaucci non so nemmeno se sta a Santo Domingo. Adesso c'è un presidente serio che è Santo Padre, che è un romano anche lui, però si è innamorato di Perugia. E ti dico, si è tanto innamorato di Perugia che mi chiama per sapere delle cose di Perugia. Io essendoci nato ovviamente so tutto naturale. Roberto Renga, ti ringrazio tantissimo, è stato grazie un piacere. A voi, buona giornata e buon lavoro. Un abbraccio, grazie a Roberto Renga. 800 24 00 24, il numero verde, vi ho detto prima del messaggio in bottiglia lanciato su Twitter, Mister Roma, cerchiamo un allenatore alla Roma. Allora c'è Andrea che scrive: quelli buoni sono ex laziali Mancini, Rea, Mihajlovic, direi Sannino, l'importante è congedare Sabatini. Oppure Zemono Stramaccioni scrive: Mattia, non riesco a immaginare una Serie A senza di loro, per favore fateli lavorare. Edo, io dico Cosmi, allenatore che gridava forza Roma. 800 24 00 24. Intanto, a proposito dei panchini, due allenatori più noti, cioè Mourinho, che sta cominciando a dichiarare guerra al mondo, ha detto, gli hanno chiesto cosa ha cambiato al Chelsea da quando sei andato via a ora che sei tornato. Risposta: nulla, perché l'Arsenal niente ha vinto. Antonio, provincia di Venezia. Buondì gente. Buongiorno. Pronto? Sì, mi sente? Sì. Niente, super tifoso della Roma da 35 anni. Un casino così non l'ha mai visto neanche lei, così come Roberto Renga. Ecco, io le dico che se dovesse arrivare Blanc come allenatore della Roma, in seduta stante do la disdetta. Dalle dimissioni. No, do la disdetta alla Pay TV. Incarto e metto in un bel scatolone bandiere, magliette, gagliardetti e quant'altro. E arrivederci al calcio, perché ritengo che chi vorrebbe a guidare la Roma, visto che uno si è definato perché ha rifirmato con il Milan quando erano già certi di di averlo in mano, e cioè Allegri. Gli altri contattati non hanno trovato scuse. Beh, Ancelotti tornerà forse un giorno. Gli altri contattati hanno trovato le scuse più improbabili. Adesso non è che c'è molta scelta. Preferisco, chi vorrebbe? Lino Banfi. Lino Banfi. Sì, mi ha capito, no? Sì. Dai, c'è cioè, poca serietà, tutto qua. Ecco. Ma no, ma secondo Antonio, seriamente il problema della Roma è un, come ha spiegato prima in maniera molto chiara Roberto Renga, è un grande casino dirigenziale, perché ci sono molte persone che hanno più o meno poteri e nessuno che comanda sul serio, e dunque Roma è diventata una piazza in cui è difficile anche trovare un interlocutore, a mio parere, per un allenatore che abbia serie intenzioni. Serafino, provincia di Como, buongiorno. A lei, buongiorno. Buongiorno. Senta, io chiamavo perché sono un tifoso di basket, esattamente, sì, della Lenovo di Cantù. Sì. E chiamavo a proposito, io sono andato a vedere la partita a Cantù venerdì contro la CEA Roma. Sì. Quella di ieri non l'ha vista? Sì, ho visto, no, quella di ieri, quella di domenica anche. Ecco, e ho visto, ora semplicemente per mettere in rilievo il fatto che a mio avviso ci sono degli arbitraggi che io definisco scandalosi, nel senso che venerdì ho assistito appunto alla partita Cantù. Sì. E effettivamente diciamo gli arbitri non hanno fischiato dei falli che erano a nostro favore intendo della Lenovo, che erano evidentissimi, e lo stesso a mio avviso è successo anche a Roma domenica. E allora, siccome già la settimana scorsa io sento ogni tanto la sua radio, e aveva telefonato un altro tifoso della Lenovo mettendo in risalto il fatto che la Lenovo è una squadra di provincia, anche se vabbè, comunque è una realtà ormai consolidata nel basket italiano. No, mi rifiuto di definire Cantù una squadra di provincia. Di provincia saranno le altre, inteso, perché nella pallacanestro Cantù è storia. Sì, no, mi scusi, di provincia inteso che è una squadra di una città di provincia, in questo senso. Sì. E a mio avviso, comunque, vabbè, ecco, questo è l'impressione che ho avuto io, ma non soltanto io, e per cui diciamo di certi arbitraggi effettivamente un po' troppo partigiani in questo caso nei confronti di Roma, e chiaramente comunque siamo riusciti a vincere semplicemente perché secondo me abbiamo giocato meglio nel contesto di tutte le 5 partite che finora abbiamo giocato. Sì, beh, Roma, però, ecco, Serafino, però Roma, no, ma insomma io tralascerei la questione arbitrale, anche se due di queste partite si sono decise su un ultimo fischio da una parte o dall'altra. Secondo me la serie fin qui, ha detto la verità, Roma è una specie di miracolo sportivo. Non dimentichiamo che non doveva nemmeno esistere meno di un anno fa, anzi pochi giorni prima dell'inizio del campionato, perché Totti non ne voleva più sapere. Ha fatto una specie di miracolo ad arrivare lì. Cantù è una squadra consolidata. Tralascerei la questione arbitrale, e comunque stia con noi perché di basket subito dopo l'interruzione parliamo, però prima Enrico da Padova, buongiorno. Buongiorno, convocato e felice, dopo tutte le cose che imparo ogni volta che ascolto la tua trasmissione, volevo intervenire per fare una chiarezza. Ogni tanto si sentono i giornalisti che quando si parla di calciomercato a volte sparano le cifre, magari perché in realtà non si sanno di preciso. Ma una cosa che riguardavo, sono tifoso della Juve, sull'acquisto di Higuain, che è già 3-4 giorni che ti sento dire no, ma che ci mancherebbe. Ok, grazie. Che ti sento dire che ha uno stipendio altissimo. In realtà Higuain va via da Real proprio perché non è uno dei più pagati, anzi è relativamente uno dei meno pagati, perché lui prende 3 milioni e mezzo. A me sembra di più, e comunque vuole un aumento dell'ingaggio. A me... Assolutamente, so che la Juve gli mi pare tra i 4 e mezzo e il 5, e a lui di sicuro, almeno così si legge, o comunque si sente un po' spulciando anche siti esteri, blog esteri, che a lui andrebbe, che è una qualcosa che lui aveva chiesto anche a Real, quindi, però Real ovviamente avendolo, considerandolo una seconda scelta o comunque un panchinaro di Benzema, e sicuramente con un arrivo, che ne so, di Suarez o Cavani rimarrebbe come seconda se non terza scelta, ovviamente sì, sarebbe molto interessato. Ecco, intendo dire solo che

ovviamente in ricordo di Nantes non poteva che essere una canzone di estrazione francese per parlare con Sandro Gamba. Adesso invece voglio parlare con voi. 800 24 00 24, numero verde. Dario Milano, buongiorno. Sì, ciao, grazie per essere stato convocato. Un gran ricordo, perché quando giocavo a calcio, quando guardavo fuori i convocati, vedevo il mio nome e mi emozionavo. Vecchio ricordo. Ma qua sei convocato tutti i giorni, anche domani. Lo so. Allora, a proposito di Francia, sì, perdonami, Errani, visto che è cronaca e sta accadendo ora, e sì, siamo in diretta, primo set con la Radvanska a Parigi, sulla sacra terra parigina, 4-3 avanti con la Radvanska, ma siamo solo al primo set. Dimmi, Dario. Ok, niente, una considerazione su Allegri. Tralascia che per me in generale è giusto quest'anno riconfermarlo, visto il lavoro fatto. Al massimo potevano esonerarlo l'anno prima, visto quello che ha perso, no? Partendo da questa premessa qui, un discorso tattico. La mia paura è che, avendo i preliminari, con Allegri si rischia molto, perché l'inizio di stagione di Allegri non è mai esaltante. Non so se per colpa della preparazione o perché non riesce all'inizio a dare una soluzione tattica buona al Milan, no? E questa è la mia paura. Ma l'altra è un po' presto, bisogna capire quale sarà la squadra, perché ancora non è chiaro. Io leggo di Poli quasi fatto, di Belfodil, e dico Belfodil. Sì, vabbè, acquisti non da Champions, nel senso, esatto, già tanto se superiamo i preliminari, se poi arriviamo ancora agli ottavi è un successo, no? Perché comunque è stato un successo arrivare agli ottavi, perché le voci all'inizio è una squadra da scudetto. Sono così, cioè da milanista non ci ho mai creduto. Ma guarda che le senti anche quest'anno, le risentirai. Ma sicuramente inizieranno a dire: ha fatto una squadra scudetto, se arriviamo ancora terzi sarà un altro miracolo di Allegri, questo sono sicuro, cioè, fondamentalmente. Ma a livello tattico, io se fossi stato in Allegri me ne sarei andato, perché sarà tutto l'anno col fiatone dietro al collo, perché il minimo errore sarà ancora messo in discussione. Quindi non so come lavorerà, perché non penso che lavorerà in modo molto tranquillo. O fa il miracolo, è un anno di, diciamo, sabbatico, per aspettare veramente Seedorf, che non so, faccia un corso non più online, ma magari che possa allenare. Già, il corso online per allenare il Milan, per allenare, sì, il Milan, se no mi metto anch'io a fare un corso online, poi magari mando il curriculum magari assumono anche me, non so, fondamentalmente. A me ricorda questa situazione, non so a te, ma mi ricorda quella di Zaccheroni qualche anno fa, cioè confermato con riserva, il matrimonio continua ma vediamo come va, non è sicuro che resista. L'avvocato Galliani finora ha messo d'accordo le parti, ne parlavo ieri. Tanto, indovinate un po' qual è la prima squadra qualificata per i mondiali di calcio, prima squadra delle notizie di oggi, il Giappone di Alberto Zaccheroni, prima nazionale qualificata per Brasile 2014, dopo l'1-1 con l'Australia. Roberto Piacenza, buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto non vorrei che il mio smartphone fosse impazzito e mi dà 5-3 Errani il primo set. Giusto. Giusto? Giusto. Bene, no, va bene. Allora, dopo il traffico di Milano, volevo mettere un po' a posto il traffico di Roma, ma ho la sensazione che sarà un po' impossibile. Dura. No, volevo solamente fare questa osservazione. Sì. De Rossi, Osvaldo Stekelenburg. Guarda caso i tre giocatori che Zeman aveva indicato come un pochettino birichini. E adesso li vogliono vendere. No, Stekelenburg l'hanno venduto. Farei una distinzione. Stekelenburg l'hanno venduto. Esatto. Questo lo sappiamo. Osvaldo e De Rossi sono un'altra cosa, soprattutto direi Daniele De Rossi, che era stato messo in discussione da Zeman, ma io non lo so, evidentemente non ha fatto una grande stagione. Secondo me ha anche fatto un errore a firmare quel contratto molto pesante, molto impegnativo, molto vistoso in generale, quindi era l'ultimo grande contratto della carriera. Fosse stato in lui, avrei scelto altre soluzioni, perché il peso appunto è alto. Però come si fa a mettere in discussione Daniele De Rossi? Io questo sinceramente non riesco a capirlo. Questa che vi facciamo sentire è la colonna sonora della ricomparsa di Cellino, presidente del Cagliari, che dopo le lunghe vicende giudiziarie è appunto comparso di nuovo in pubblico suonando la chitarra con la sua rock band, nell'occasione che appunto vi facciamo ascoltare. Ovviamente la voce non è sua, sono le dita sulle corde della chitarra. Questa è la ricomparsa di Cellino, che ha parlato anche della sua così inedita esperienza nel carcere sardo di Buoncammino. Grazie, benvenuti. Ti chiedereste come si fa Buoncammino, si sta bene. Tanto prima o poi ci scendete tutti. Imperdibile, guardatelo, non so, su YouTube o altrove se potete, Cellino con la bandana per la sua riapparizione in pubblico. C'è chi scrive: Marco Allegri, benvenuto nel mondo del lavoro. Anselmo da Pescara, 80024 0024, numero verde per voi. Anselmo, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per la convocazione. Grazie a te di aver risposto. Io vorrei fare una considerazione, proprio ricollegandomi innanzitutto nel bentornato al presidente Cellino, sì, e anche per il caos societario della Roma che stiamo vivendo, insomma, in questo periodo. La mia sensazione è che a livello italiano e più in genere a livello europeo il vero caos che si sta sviluppando è dovuto alla perdita proprio di identità, forse, di molte società, anche con l'ingresso in campo di tutti questi mega mecenati, magnati internazionali, che poi rivoluzionano dirigenze, allenatori, squadre, giocano con queste società un po' come se si facesse l'album dei Panini. Anselmo, fanno un altro gioco, ormai insomma abbiamo quelle 5 squadre che possono prendere chi vogliono, abbiamo un surplus di giocatori che anche guadagnano molti soldi, e io sono curioso di vedere come finisce la vicenda Cavani, perché sono curioso di vedere chi dà 60 milioni a Napoli e a De Laurentiis per Cavani. Sono in fondo, la concorrenza è ristretta, cioè ci sono più giocatori disponibili, anche grandi giocatori, che squadre che possono permetterseli, no? Ecco, io direi che il problema è che ci sono grandi giocatori disponibili e pochi invece sono i grandi dirigenti disponibili. Io parlo da interista e direi che Galliani andrebbe clonato e dovrebbe andare a fare scuola un po' in giro per il mondo e l'Europa, insomma, perché secondo me c'è una grossa crisi anche dovuta al fatto che non ci sono figure dirigenziali di uno spessore tale da poter gestire anche questo nuovo calcio che si è affacciato al giorno d'oggi, sia per chi soldi li ha, sia per chi non li ha, insomma. Anche se ti devo dire che secondo me il problema del Milan, beh, Galliani bravissimo, Braida bravissimo, dirigenti di grande esperienza, però al Milan forse adesso manca quella fame che c'era in passato, quella voglia, quella disponibilità che c'era in passato di andare a scovare per il mondo. Kakà, Thiago Silva, Pato era conosciuto ma alla fine l'hanno portato a casa loro, ecco, giocatori futuribili, grandi giocatori futuribili, grandi talenti, e forse questo al Milan in questo momento manca, sì, anche se Galliani poi è bravissimo a prendere, è ancora bravissimo a costruire cartelli di carte, a prendere giocatori che sembrano impossibili, ultimo dei quali l'affare Balotelli dal City, però mi sembra manchi quella voglia di alzare le terga dalla sedia, andare in giro per il mondo a scovare e poi a portare a casa questi giocatori molto giovani e di grande futuro. Ci aggiorniamo domani? Che dite, ragazzi? Grazie a Franco Piantini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ciao a tutti.